la versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi 52 secondi in questo venerdì 26 di maggio. A Milano sembra di stare a fine luglio, un caldo micidiale. Dagli studi qua io vi ringrazio come sempre per l'ascolto, in diretta in podcast. Vi ricordo l'indirizzo, versione di Oscar, @radio24.it. Sto provando a rispondere a tutti quelli che hanno scritto, magari perché avevano letto il Messaggero il mattino di oggi, non erano d'accordo con quello che ho già scritto su guitar e musei, ma di questo l'abbiamo già parlato stamattina, però non ho ancora finito con tutti, abbiate pazienza, ma arriveranno le risposte per tutti entro stasera, spero. Detto tutto questo, di che cosa parliamo oggi e per cosa mi invito, se volete, a farci felici telefonando all'800240024, è una trasmissione dedicata, torniamo ad occuparci in questa trasmissione, come fatto settimane fa, dei dirigenti scolastici, quelli che un tempo si chiamavano i presidi. Settimane fa spiegammo che ai dirigenti scolastici, mia personalissima opinione, era stato fatto un grande torto smontando ciò che la buona scuola aveva promesso loro, smontandola nelle prerogative dopo mesi di attacchi sindacali per cui si diceva che erano gli nuovi sceriffi, e infatti sono state smontate le prerogative. Dopodiché le responsabilità restano, anzi sono aggravate, sono venute meno le facoltà per completare l'offerta formativa della scuola con i docenti delle graduatorie, perché questa attaccatissima loro nuova facoltà concessa dalla buona scuola è praticamente sparita, perché nel frattempo con il nuovo ministro quelli che entrano in ruolo si possono riscegliere la cattedra a casa e quindi non si va dove le cattedre sono scoperte la domanda, e in più però la retribuzione resta, su questo lo Stato non ci sente, bloccata e totalmente non in linea con quella dei dirigenti pubblici, con un gravame di responsabilità che vedremo oggi a che cosa li espone. Non mi sbagliavo troppo, perché sono dopo qualche settimana i dirigenti delle loro associazioni sono andate a protestare sotto il ministero, ma sapete com'è, mica sono i grandi sindacati che ottengono quello che vogliono, dopo aver protestato duramente, aver fatto pagare un peso elettorale abbastanza evidente al PD nel referendum. Io vi ricordo che abbiamo avuto 3 infornate successive di immissioni in ruolo della buona scuola, siamo a 140.000 unità di docenti in ruolo, la prima, quella di 80 e rotti mila subito con la riforma, poi con il concorso estivo di cui vi abbiamo informato, di risultati di cui ritardi vi abbiamo informato insieme all'altissima percentuale di coloro che non lo hanno passato, poi una terza missione in ruolo con il ministro Fedeli per entro la fine di quest'anno, e vedrete che altre ne verranno. Ma a fronte di tutto questo, per i dirigenti scolastici non ce n'è, per così dire. Vi invito, per chi volesse approfondire, a leggere le 2 pagine che trovate oggi su Repubblica, con molte testimonianze dei dirigenti scolastici da tutta Italia. Il titolo di Repubblica è oggi: i presidi in piazza, altro che manager, la buona scuola è rimasta un sogno. Maria Novella De Luca scrive ottimamente, con molte interviste da dirigenti da tutta Italia. Annalisa Wagner, Varese: lavoro già 13 ore e adesso mi chiedono di controllare i vaccini. Vittorio delle Donne, Napoli: cambiamo lampadine anziché combattere disagio e abbandono. Luigi Zennaro, Chioggia: ma quali sceriffi? Siamo dirigenti statali meno pagati di tutti. Giovanna Martano, Procida, medesima isola nel Golfo di Napoli: troppe responsabilità, ma soprattutto se si rompe un tubo la colpa è nostra e pago io. E vedrete che non è una battuta, perché tra poco scoprirete che questo pagare di tasca propria è esattamente quello che capita ai dirigenti scolastici. Capita a qualcun altro dirigente pubblico nel nostro paese? Se lo sapete, telefonateci e segnalatecelo. Ma intanto qua oggi vi raccontiamo che questa figura di Mr. Wolf, il risolvi problema di ogni complesso scolastico italiano, si trova a dover fare anche quello. Non so quanti genitori lo sappiano, so che molti di voi lo sanno e tentano di dare una mano dal basso, con risorse aggiuntive alla scuola dopo i tagli di questi anni, so tutto. Ma io continuo a pensare che un intervento sulla scuola che aveva promesso non ha mantenuto su questo, beh, forse merita nel tempo con le compatibilità della finanza pubblica di dare una risposta anche a loro, visto che hanno poteri così importanti, anzi poteri pochi, hanno responsabilità molto importanti. La vita impossibile dei presidi, titola anche La Stampa oggi, capi di istituto in piazza. E allora abbiamo scelto tra le testimonianze che c'erano oggi sulla stampa italiana quella di un dirigente scolastico che in realtà è da anni che viene di tanto in tanto intervistata per quello che fa, spiegando quello che fa a Torino, perché ho qua sue interviste del 2014 e così via, in cui spiega come equalmente la vita di un dirigente scolastico debba fare, non voglio dire i salti mortali, ma insomma abbia un tale profluvio di competenze a cui far fronte che visto da fuori uno non se lo immagina molto facilmente. Lorenza Patriarca, dirigente dell'Istituto Tommaseo di Torino. Buon pomeriggio e grazie di aver accettato oggi di rendersi disponibile ai nostri microfoni per testimoniare a nome di tutti i suoi colleghi che cosa fate in realtà. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Io prima, se lei me lo consente, prima delle questioni ordinamentali e finanziarie, della retribuzione e così via, vorrei proprio chiarire, che lei ci chiarisse meglio, che il titolo che c'era in una delle testimonianze di una sua collega oggi, cioè "pago di tasca mia", non è un'esagerazione giornalistica, è vero o no? No, non è. Io stessa ho pagato due multe rispetto dal mio conto corrente personale. Ma com'è possibile? Ci spiega un pochino questa storia delle multe che ha pagato. Sì, perché noi siamo per norma datori di lavoro rispetto alla nostra istituzione scolastica, perché bisognava trovare qualcuno che in qualche modo garantisse rispetto alla sicurezza per gli edifici. Gli edifici sono, preciso, di proprietà dell'ente locale, quindi del comune per quanto riguarda le elementari e le medie e della provincia per quanto, insomma, città metropolitana ormai per quanto riguarda città grandi, per le scuole superiori, licei, istituti tecnici, professionali. Però colui che sovrintende tutte le questioni di sicurezza, quindi si occupa di stilare il piano di valutazione dei rischi, mettere sotto contratto un medico competente, valutare, definire il piano di sfollamento, eccetera, eccetera, eccetera, fare i controlli di sorveglianza, è il dirigente scolastico. Quindi spesso i dirigenti scolastici hanno una formazione come la mia di tipo umanistico, però in qualche modo hanno in carico delle responsabilità molto importanti. Che lei ha dovuto diventare un tecnico edilizio, un tecnico di sicurezza, un tecnico tutto. Sì, sì, cioè quantomeno farmi affiancare, ovviamente pagando con i fondi del funzionamento della scuola, perché poi non ci sono dei finanziamenti per far questo, ho dovuto ovviamente farmi affiancare da un tecnico vero, in questo caso, nel mio caso, un architetto, che mi aiutasse a fare questo lavoro, perché poi ovviamente per definire, per stilare il piano di valutazione dei rischi occorre avere un titolo che io non ho, cioè io ho il titolo per fare il preside, non per far quello. Sì. Però poi chi poi firma materialmente questo piano, che non ho redatto io, è il dirigente, e se qualcosa non va, gli enti di controllo multano direttamente il dirigente. Multano, in realtà non si tratta proprio di una multa, ma di un'ammenda sostitutiva del procedimento penale, perché ovviamente il datore di lavoro, rispetto ad una violazione delle norme di sicurezza rispetto ai lavoratori, insomma, assume in capo suo una responsabilità penale. Quindi se qualcosa non va, potrebbe avere due scelte: può andare sotto processo penale oppure pagare un'ammenda sostitutiva del procedimento penale. Il 90%, 99,99% di noi, consigliato dai nostri avvocati, sceglie di pagare le multe. Ma in questo caso le verifiche che tipo di inadempienze avevano riscontrato per cui ha dovuto pagare? Nel caso mio c'era un rifacimento della facciata, questo nel 2007-2008, e del tetto, perché c'era un contro, c'erano i sottotegole, insomma c'erano in amianto, e quindi ovviamente le norme prevedevano che venissero rimosse. Quindi nell'estate è stata montata tutta l'impalcatura intorno alla scuola e sono state sostituite le tegole, e poi è cominciato il rifacimento. Il mio è un edificio storico del 1877, quindi ovviamente ci voleva una certa precauzione. Quindi diciamo che queste impalcature sono state intorno alla scuola per mesi. E a settembre, ho ricevuto, pochi giorni dopo l'inizio della scuola, ho ricevuto una visita dello Spresal, dei vigili del fuoco. Insomma, sono arrivati 7-8 persone a controllare tutti insieme e si sono sguinzagliati per la scuola quasi per cercare qualcosa che non funzionasse. Lei pensi che io ho 3 edifici scolastici, 50 classi, 1265 bambini ed eravamo all'inizio d'anno, quando tu devi far funzionare tutto in tempi brevissimi e insomma, la mia prima preoccupazione è che le classi abbiano tutti gli insegnanti, ci sia l'orario definitivo e che le cose funzionino. Ovviamente poi mi occupo anche del resto, ma in quel momento avevo nell'estate, mi ero occupata del cantiere, insomma, avevamo fatto delle nuove acquisizioni in biblioteca, un edificio storico con una bella biblioteca ben fornita e il bibliotecario, la bibliotecaria, l'insegnante che si occupa della biblioteca, perché ovviamente non abbiamo bibliotecari distaccati, aveva, mentre li stava, come dire, stava inserendo nell'archivio i libri, li aveva appoggiati sul davanzale. Le norme prevedono che i davanzali siano sgombri da qualunque oggetto perché si deve garantire il rapido ricambio. Ho capito, ma i libri sul davanzale non mi sembra una cosa. Vabbè. In una delle aule c'erano delle piantine, sempre su questo davanzale, e quindi anche quella un'altra multa. In più, secondo gli ispettori, bisognava garantire il ricambio d'aria periodico per far entrare aria salubre. Io mi trovo in pieno centro di Torino, l'aria non è tanto salubre, ma va bene comunque. Perché dato che c'era il cantiere bisognava in qualche modo coordinarsi con le persone del cantiere. In realtà il cantiere funzionava il sabato, il venerdì pomeriggio, insomma quando non in concomitanza con le lezioni. In ogni caso era previsto che ciascuna classe cambiasse l'aria, c'è scritto nelle indicazioni di regolamento, che ogni qualvolta ne sia necessità, principalmente negli intervalli, si cambia l'aria della classe. Ecco, ma non è che tutte le classi fanno l'intervallo nello stesso momento, né tutte le classi sono occupate per lo stesso tempo dai ragazzi. Quindi, insomma, gli insegnanti decidono loro quando aprirle le finestre. Ecco. Io non avevo fatto, secondo gli ispettori, un piano di ricambio d'aria per tutti i piani e quindi ho pagato più di 1000 euro per ogni piano della scuola di multa. E poi in cantina, nelle mie cantine, dove abbiamo un archivio, sono i tubi, ancora adesso, che passano a 1,70 m, e mancava un cartello che dicesse attenzione, pericolo per ostacolo fisso, perché ovviamente coloro che fossero andati giù in archivio avrebbero potuto malauguratamente sbattere il capo. Ecco. Allora, insomma, su queste cose sicuramente molto pericolose, io potevo scegliere se andare davanti al giudice a discutere o pagare. Allora, e quindi ha pagato. Mi hanno consigliato che era meglio così. No, io non avrei, devo dire, dottoressa Patrica, che se non avessi avuto il racconto che ci ha fatto e che ho letto sulla stampa, non avrei mai creduto che il dirigente scolastico si becca 1098 euro per ogni piano dell'edificio per il quale non abbia redatto in forma burocraticamente impeccabile e vidimata dal tecnico il piano di ricambio dell'aria, cari ascoltatori. No, cioè, stiamo parlando di cose che sembrano uscire da un romanzo, per così dire, satirico, cioè sembrano uscite da Gogol, e invece no, 1100 euro per ogni piano che il dirigente scolastico paga perché non c'è il piano di ricambio aria. Oppure un'altra bella sanzione, beccati altri 1000 euro perché ci sono i libri sul davanzale. Allora, è chiaro che, dottoressa Patriarca, ma lei vuole dirci che questi sono paradossi che sono toccati a lei perché è particolarmente sventurata, o è questo il tenore delle ispezioni e delle sanzioni elevate con cui hanno a che fare i suoi colleghi? Io diciamo sono stata particolarmente sfortunata perché ci sono alcune zone della città dove diciamo gli ispettori sono particolarmente solerti, però ripeto, il problema esiste. Lei i miei colleghi hanno avuto delle multe perché nel documento di valutazione dei rischi non era stato precisato qual era il peso dei bambini che si potesse, medio dei bambini da sollevare nel caso della movimentazione del carico. E questo già ci può stare. Ma lei a un certo punto segnala che c'è chi è stato sanzionato perché Nel documento rischi non era segnalato e normato il rischio voce. Certo, di cosa certo. Si tratta? Sempre a Torino. Perché ovviamente gli insegnanti parlano quando... E allora? E quindi la voce come strumento professionale è uno dei rischi a cui possono incorrere gli insegnanti, è quello. Ma scusi, alle corde vocali. A me scappa da ridere, ma nel piano sicurezza per il rischio voce, in teoria che cosa dovreste prevedere voi? Dovremmo fare in modo, mettere poi in campo delle misure per ridurlo. Allora, ma cosa vuol dire? Dovete mettere dei rilevatori di decibel oltre i quali non deve andare l'emissione di voce dell'insegnante? Sì, da una parte, dall'altra probabilmente fare un corso di formazione ai docenti perché imparino a usarla. La voce. E poi dovremmo avere degli ambienti insonorizzati, che ovviamente in alcune zone della città, io le dico, nel centro cittadino magari dove passa un tram non è facile, e poi soldi per insonorizzare le aule chi se li dà? Io faccio sempre, l'altro sabato ho dovuto far venire degli operai a spese della scuola per far sostituire le porte perché me le avevano tolte perché i cardini erano pericolanti e non c'erano i soldi per rimetterle. Ho dovuto trovare nelle pieghe del mio bilancio, sono una scuola che è molto attiva, facciamo raccolte fondi più che possiamo, insomma siamo specializzati nel trovare le risorse, e ho trovato 800 euro e ho fatto io rimettere a posto le quattro porte. Allora, intanto la interrompo perché abbiamo un minuto di informazioni di servizio sul traffico. Poi torniamo con la dottoressa Lorenza Patriarca, dirigente dell'Istituto Tommaseo di Torino. Io spero che questo racconto vi abbia colpito, cari ascoltatori. I dirigenti scolastici, i famosi sceriffi contro cui i sindacati hanno sparato a palle incatenate, ecco, queste è il... sono solo alcuni esempi delle cose a cui vanno incontro nell'ordinaria amministrazione della scuola italiana, pagando di tasca loro. Tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati a parlare della condizione di questi circa 7.000 dirigenti scolastici italiani, le promesse della riforma per loro non mantenute, anzi passi indietro, la pesantezza e la complessità delle responsabilità che loro toccano. Sentiamo rapidamente due telefonate e poi sentiamo di nuovo cosa ne pensa Lorenza Patriarca, che è qui con noi, che è dirigente scolastico dell'Istituto Tommaseo, del presso Istituto Tommaseo di Torino. Giovanni da Milano, prego Giovanni. Oscar carissimo, intanto un grande abbraccio per stima e affetto. Grazie. Poi chiedo alla redazione se magari in sede privata può lasciare il mio numero, ci diceva, perché avrei bisogno di parlare con lei per un'altra cosa molto importante. Benissimo. Glielo chiedo cortesemente, si poi figura. Magari ci sentiamo. Sì. Volevo dire questo, io sono insegnante alle medie, musica. Sì. Però il bambino che fa le elementari nella scuola, non dico né nome né niente per non sollevare questioni personali. Ovviamente chiedo alla dirigente a cui ho sentito l'intervento di chiedere responsabilità quando ho un insegnante di italiano che insegna a mio figlio ed è disgrafica e disortografica. Quando ci sono dei seri problemi da un punto di vista anche di sicurezza all'interno della scuola, per cui nel mese di febbraio siamo senza la biblioteca, l'aula di musica, l'aula di informatica, nella stessa scuola. Ma perché non sono agibili? Esatto, perché c'è stato un controllo dopo il famoso crollo avvenuto tempo fa, circa a maggio dello scorso anno. Il comune dove risiedo io, che è dell'interna milanese, ha previsto di fare delle verifiche e in una sala dove io andavo a lavorare per fare del volontariato, facendo delle prove di assaggio come controllo tecnico, venivano giù i soffitti. A che hanno detto, controllo fatto a ottobre, sgombrare immediatamente le aule eccetera a febbraio. In più, nella stessa scuola dove siamo noi ci troviamo ad avere bambini della materna e dell'asilo nido. Non dico com'è messa questa situazione, una struttura che dovrebbe accogliere circa 300 bambini, in questo momento ne ha 480 circa. Però la cosa più grave è che noi con la preside non possiamo interferire, perché se diciamo qualcosa a livello didattico è un'interferenza didattica, se diciamo qualcosa a livello di struttura è problema del comune. Io come genitore mi chiedo, ma il piano forma, il famoso POF che non viene rispettato, a chi devo chiedere io il parere? Domanda precisa, adesso sentiamo cosa risponde e intanto sentiamo anche rapidamente Gianni che ci chiama dalla provincia di Milano. Gianni. Ciao Oscar. Sì. Buona giornata, un abbraccio fortissimo anche da parte mia. Grazie. Allora. Perdonami, io lavorando in ambito scolastico ho una certa cultura specifica. Mm-hmm. Allora, vorrei ribattere alla preside del Tommaseo su due aspetti, secondo me assolutamente fondamentali. Allora, il responsabile della sicurezza e la protezione, l'RSPP, questo soggetto di cui la professoressa stava parlando, è un soggetto di tutela per l'istituto scolastico. Firma un regolare contratto con la scuola, redige della documentazione che la dirigente firma, nel momento stesso in cui vengono sollevati delle sanzioni di carattere amministrativo nei confronti della dirigente, perché ne è lei comunque la responsabile, questa ha modo di rivalersi nei confronti dell'RSPP. Ah, di rivalersi quindi, personalmente lei? Di rivalersi dal punto di vista economico, sia come prima osservazione chiara. Dirigente scolastico, quindi non ha pagato di tasca sua nulla e se l'ha fatto si rivalga. La seconda? Se le dà facoltà. La seconda cosa assolutamente fondamentale è che è evidente che non possono essere lasciati vasi, libri e quant'altro sui balconi, davanti. Perché nel momento stesso in cui cadono chiaramente possono creare del danno a qualcuno. No, ma il problema è che erano i davanzali interni. Erano i davanzali interni, non erano che in aggetto nella parte che sporge. Ma se io passo sotto il davanzale e mi casca un vaso sulla testa, mi fa male e la responsabilità civile. Ripeto, il davanzale se è dentro non cade sulla testa di nessuno. Comunque, ho capito entrambe le osservazioni. Facciamo rispondere a Lorenza Patriarca. Lo sapevo che i nostri ascoltatori erano puntuti. Sì, ma va bene. Allora, intanto rispetto alle multe, ripeto, dato che non si parla di multe, ma di ammende sostitutive del procedimento penale. Il procedimento penale è personale, esatto, e quindi io non posso rivalermi su qualcuno perché quella multa è come se fosse una cosa per me, non c'è neanche la mia, io ho un'assicurazione, ovviamente tutti abbiamo un'assicurazione, quindi non si può rivalere, chiarissimo, perché altrimenti il procedimento penale riguarda lei, quindi nessun altro, certo, nei confronti è personale. Potrei andare potrei decidere di andare in giudizio e vedere se questa cosa mi viene tolta o se può ricadere su altri, questo potrei farlo, ma il rischio, ripeto, è sempre altissimo. Secondo invece la domanda che riguarda è appunto rispetto ai davanzali, ribadisco, si tratta di davanzali che sono ad altezza un metro, quindi non è che cadeva nulla. Vabbè, ma comunque sì, io voglio dire ai nostri ascoltatori, capisco che in questo paese voi non credete a niente a nessuno, però insomma, ripeto, guardate le pagine giornali di oggi e vi abbiamo voluto, grazie alla dottoressa Patriarca, solo sottoporre alcuni casi delle tante cose che lo Stato chiede di fare a chi poi riserva zero di quello che aveva promesso, e secondo me non è giusto per i nostri figli, per la scuola, per il capitale sociale, per l'ascensore sociale che la scuola dovrebbe rappresentare per chi ha meno, dovrebbero occuparsi di più di inclusione e offerta formativa e meno di davanzali e tubi. Appuntamento domani dalle 10 alle 12 con i conti della Belva, continuate su Radio 24.